mio, se mi ascolti bene. Io sì, claro. Radio Giulio. Non ho capito, cosa hai detto? Io sì. La radio è buona? Papà. La radio è buona? Ehi, alla cla, Giulio. Cosa, Robert? Cosa hai detto, Robert? Questa già rulla, Microfono normale, ma già rulla. Va bene, va bene. Come? Sì, mi sto ascoltando, buona. Questo microfono normale, la radio è FT950 della IAIS. Ma segnale, mi ascolti bene ad Alghero, roba, sono in direttiva io, direttiva verso la Corsica. Robe, ho detto, ma tu mi ascolti bene lo stesso ad Alghero? La direttiva è puntata da un'altra parte, questa direttiva, anche se lavora di fianco non c'è niente da fare, ottimo per la truppa, non ho capito, va bene, non c'è problema allora, possiamo usare anche questa radio con l'altra antenna, ci sentiamo dopo che devo fare cosa, a dopo. Cosa hai detto, Giulio? Aspetta un attimo. Ho detto che mi sono dovuto allontanare. Mi senti qua? Non ti sento del radio, aumenta. Non mi senti? Come non mi senti? Il radio non ti sento. Ah, del radio non mi senti, adesso mi senti? Adesso sì, se stacchi tutto. Ehi, vabbè, l'avevo abbassato perché avevo fatto la regolazione per l'FM, capito? Ho capito, cos'è che stavi dicendo? Ho detto, se mi hai chiamato, che mi sono dovuto allontanare. Ti ho detto anch'io che mi stavo allontanando, sto facendo cosa, vai. Quindi va bene del radio anche questo, Va benissimo, non bene, benissimo va, cos'ha? Che aspetta? Anche la M va benissimo. Qua se ci metto il microfono a tavolo, se lo mangia di 4:40. Va bene, dai, ci aggiorniamo dopo, ok? D'accordo, dopo dai, più tardi, ciao.